in primo piano. Buona giornata e soprattutto ancora buon anno da parte mia, Mauro Meazza. Benvenuti alla prima lettura dei primi giornali del 2014. Giornali che hanno una sorta di apertura obbligata, una scelta obbligata tra due possibili notizie di ieri. L'uno è l'accordo che ha riguardato Fiat e Chrysler e l'altra naturalmente è l'eco del discorso del Presidente della Repubblica, del messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Allora esaminiamo come i principali quotidiani questa mattina in edicola, per la prima volta nel 2014, hanno scelto di gestire questi temi. Cominciamo dalla Stampa, quotidiano torinese, che dedica il suo titolo più evidente all'accordo Fiat Chrysler. Accordo fatto, Chrysler alla Fiat, nasce il sesto gruppo mondiale dell'auto, ricorda già nel titolo la Stampa. Il fondo Veba cede al Lingotto il 41,5% per 3,6 miliardi di dollari. Torino ne pagherà 1 miliardo e 75. Elkann, che ha dichiarato: aspetto questo giorno dal 2009, Marchion ne ha commentato parlando di fatto storico. Un editoriale dedicato appunto a questo accordo è di Francesco Manacorda, così si vince la scommessa del futuro, e poi la ricostruzione della lunga partita a poker, così nel titolo del richiamo dell'articolo di Maurizio Molinari, la fine del braccio di ferro con l'azienda italiana, tra l'azienda italiana e il sindacato americano, fine del braccio di ferro che appunto ha aperto le porte alla fusione tra le due società. Ma restando ancora sulla Stampa, sormonta, sta al di sopra di questo grande titolo dedicato la vicenda Fiat Chrysler, che è naturalmente su tutti i quotidiani, il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Napolitano scuote i politici, più coraggio per cambiare il paese, e legge le lettere dei cittadini. Questo è stato il tratto più evidente, più marcato del discorso del Presidente della Repubblica nella serata del 31 dicembre, cioè questa scelta di voler proprio dare lettura di alcuni passaggi delle lettere da lui inviate al Presidente della Repubblica, inviate al Quirinale nel corso dell'anno, in qualche modo per dare voce al disagio, ai problemi, alle difficoltà, allo smarrimento della gente, dei giovani, delle imprese, delle persone comuni, insomma, in qualche modo, naturalmente cercando di rappresentare un po' tutte le classi sociali. Sette citazioni, e questa scelta stilistica, possiamo dire, fa discutere questa mattina, vede contrapposti un po' i giudizi dei vari editorialisti. Legge le lettere dei cittadini, ricorda la Stampa già nel titolo, che sta appunto al di sopra del grande titolo dedicato a Fiat Chrysler, e due commenti, l'uno di Marcello Sorgi, che parla di operazione credibilità, ricordando nel suo editoriale la vicenda, che però è successiva al discorso di Napolitano, della vicenda dei Marò indiani e l'annullamento della commessa ad Augusta Westland, e la voce della gente di Marco Belpolo, editoriale in cui Belpoliti appunto dà peso a questa scelta di leggere, di dare lettura appunto delle lettere inviate a Napolitano dagli italiani. Grande foto per ricordare che è entrato in carica il nuovo sindaco di New York, la svolta di De Blasio, più tasse ai ricchi, ha annunciato il nuovo sindaco, rinuncia all'auto blu, arriva in metro al giuramento, una cosa che ben si lega a quanto anche il Presidente Napolitano ha voluto ricordare alla politica, cioè alla necessità di intervenire con delle riforme. Restiamo per il momento sui soli titoli, anche per segnalarvi come già le letture, specialmente del discorso del Presidente della Repubblica, siano ovviamente molto diverse tra un giornale e l'altro, tra una linea editoriale e l'altra. Repubblica pure sceglie di dare il suo titolo principale a Chrysler, tutta Chrysler nelle mani Fiat, il Lingotto sarà al 100%, Marchionne che ha detto diventiamo costruttori globali di auto. E a centro pagina del quotidiano fondato da Scalfari, Napolitano: non mi intimidiscono, anche la politica faccia sacrifici, appunto come ricordavamo del gesto un po' pauperista, se volete, ma sicuramente molto efficace, del sindaco di New York che si è presentato al suo giuramento utilizzando la metropolitana. La voce del disagio è il titolo dell'editoriale di Massimo Giannini, che già nelle prime righe dice: l'ottavo messaggio di Giorgio Napolitano è lo specchio dell'anomalia italiana in senso aritmetico, perché naturalmente, come sappiamo, è la prima volta che un Presidente della Repubblica legge un ottavo discorso, avendo, come dire, replicato il suo primo settennato. Ha ricordato anche Napolitano nel suo discorso che sono state esercitate forti pressioni su di lui per fare così, cioè perché accettasse un secondo mandato, cosa che lui invece aveva escluso, aveva annunciato di non essere appunto disponibile. E poi, scrive ancora Giannini, è anomalo appunto perché in senso politico mai come oggi l'Italia scissa tra piazza e palazzo sopravvive suo malgrado sul crinale instabile del semipresidenzialismo di fatto. Queste le prime righe del commento di Massimo Giannini su Repubblica. L'Unità decide invece di dare forza nel titolo a un'altra circostanza che riguarda sempre il messaggio di fine anno di Napolitano. Come sapete, quest'anno, questo 31 dicembre, c'era stata una sorta di sfida mediatica lanciata da Beppe Grillo, il fondatore e l'animatore del Movimento 5 Stelle, che dal suo sito web aveva appunto annunciato un messaggio di fine anno invitando al boicottaggio del discorso ufficiale invece del Presidente della Repubblica. Bene, questo boicottaggio non ha funzionato, nel senso che uno degli esiti del discorso di Napolitano è che appunto è stato conseguito un record di ascolti, e questo è il titolo che sceglie l'Unità: Napolitano spegne Grillo. Fallisce il boicottaggio dei 5 Stelle e di Berlusconi. Anche Berlusconi è stato molto critico nei confronti di Napolitano, lo è anche oggi sui giornali. Avrebbe voluto, dice il Cavaliere, una citazione per la vicenda che lo ha riguardato della decadenza, come sapete, da senatore, essendo stato lui condannato in via definitiva. Ascolti record, più 12,2%, scrive l'Unità, per il discorso di fine anno. Il dramma del paese nelle lettere dei cittadini, quindi anche qui la sottolineatura della scelta di dare voce diretta ai cittadini, e il capo dello Stato che chiede il coraggio del cambiamento. Michele Ciliberto dice che siamo di fronte a un presidente social, perché spiega già dalla prima pagina dell'Unità: il discorso del capo dello Stato di ieri sera non può essere catalogato come un ordinario fatto politico. Non lo è stato come ispirazione, lessico, contenuto. In primo luogo, Napolitano ha voluto tenersi lontano dalle polemiche politiche e soprattutto dal gergo politicistico, in cui esse spesso decadono e degenerano. Scegliendo deliberatamente di mettersi controcorrente, ha fatto riferimento esplicito ai problemi quotidiani degli italiani. Così le prime righe di Michele Ciliberto, che commenta per l'Unità il discorso di Napolitano. Ma vediamo invece qualche voce fortemente critica nei confronti dello stesso discorso. Dal voto al discorso, così Napolitano ha diviso il paese, è la lettura che ne dà invece il Giornale, diretto da Alessandro Sallusti. Presidente di parte, scrive in questo titolo il Giornale, quante cose sono cambiate dalla rielezione di Napolitano al Quirinale. In pochi mesi il capo dello Stato è riuscito a dividere il paese tra chi lo critica e chi lo santifica. Il discorso di fine anno è stato solo l'ultimo passaggio della deriva che lo ha portato in questa scomoda posizione. Questo il riassunto di quello che poi si trova nelle pagine 2 e 3, quindi nelle primissime pagine del Giornale. Voce roca e occhi fissi, durissimo il giudizio del Giornale anche sull'aspetto appunto del Presidente della Repubblica, che scrive appunto il Giornale già titolando l'analisi affidata a Stefano Zecchi. Voce roca e occhi fissi, più che un discorso è un'orazione funebre. Seduto a un tavolinetto, il presidente sceglie un tono dimesso. Quando sembra rianimarsi, ci si aspetta il colpo di scena delle dimissioni, che invece non arriva. E poi Vittorio Macioce, a cui è affidato un altro commento, parla della invasione di Giorgio, finto pacificatore che ha diviso l'Italia. Napolitano, spiega Macioce, ha stravolto il ruolo del Quirinale, né garante né arbitro, fa politica in prima persona, è lui il primo punto di rottura del paese. Più duro, se possibile, anche della lettura che viene data dal giornale, è un altro quotidiano sempre diciamo di area lontana sicuramente da questa maggioranza, e cioè Libero. Su Libero, infatti, chiedo scusa, ci sono diversi punti di critica nei confronti del discorso del Presidente, e già il titolo, come dire, è tutto un programma. Marziani a Roma è l'argomento che viene scelto, cioè le parole che sormontano il titolo grande della prima pagina di Libero, che è imbrogli da Quirinale. In quali imbrogli, spiega appunto il quotidiano diretto da Belpietro Napolitano, si scaglia contro la casta di cui è il capo e le tasse e le leggi vergogna che ha controfirmato, proprio come il partito di Renzi, che prima vota le porcate e poi le critica. Belpietro è durissimo nel suo editoriale, dice: la sera dell'ultimo dell'anno gli italiani che si sono seduti davanti alla TV per sentire il discorso del Presidente della Repubblica avranno probabilmente avuto la sensazione di trovarsi di fronte a un marziano. A Reti Unificate il capo dello Stato prima si è messo a leggere alcune lettere di persone duramente colpite dalla crisi e poi ha criticato la politica delle troppe tasse e dei mancati tagli agli sprechi, a cominciare da quelli agli onorevoli. Un appello anticasta pienamente condivisibile, continua Belpietro, se non fosse che le parole provenivano da un esponente della casta, anzi dal suo massimo esponente. Non soltanto, continua Belpietro, Giorgio Napolitano è entrato in Parlamento oltre 60 anni fa, ma in 8 anni da capo dello Stato ha fatto poco o nulla per ridurre i costi del Quirinale, con il risultato che ad oggi il Colle costa allo Stato il triplo di quanto pagano i francesi per mantenere l'Eliseo. Nonostante abbia 88 anni e dunque sia in pensione da un pezzo, il Presidente incassa un fior di stipendio. Qui sinceramente forse Belpietro si fa un po' prendere la mano dall'attacco, non si capisce perché il Presidente non dovrebbe incassare uno stipendio facendo il Presidente della Repubblica, però questa è appunto la lettura che ne dà Belpietro. Molto duro anche nel prosieguo della sua critica, spiega appunto che in fondo la situazione in cui ci si trova è in qualche modo imputabile allo stesso Napolitano. A noi le parole dell'uomo del Colle, scrive Belpietro, sono suonate false anche e soprattutto per un altro motivo. Se oggi ci troviamo in questa situazione, cioè con la più alta pressione fiscale e un tasso di disoccupazione a due cifre, gran parte della responsabilità grava proprio sul Presidente della Repubblica. È infatti a lui che si devono imputare le colpe dei disastri compiuti dal governo Monti e dal governo Letta. L'ex rettore della Bocconi, l'ex vice segretario del PD sono divenuti Presidenti del Consiglio delle larghe intese solo per voler suo, perché il capo dello Stato si è impuntato impedendo agli italiani di tornare alle urne. È Napolitano che ha dato copertura istituzionale a un governo di professori e banchieri che nessuno aveva votato, è lui che ha condotto per mano Monti, La Fornero, Passera e tutti gli altri esponenti dell'esecutivo tecnico, assicurando agli italiani che docenti e finanzieri ci avrebbero fatto uscire dalla crisi. Sempre Napolitano ha tenuto a battesimo il governo Letta, facendo intravedere una pacificazione del paese che poi non ha avuto il coraggio di portare a compimento, lasciandoci in mezzo al guado tra riforme incompiute e misure per la crescita che non fanno crescere. Il Presidente oggi non può dunque cavarsela presentandosi di fronte alle telecamere come se fosse un semplice spettatore, un testimone senza potere che denuncia ciò che non va come fosse un anziano saggio appena giunto da un altro mondo. Questi alcuni tratti della critica molto feroce di Libero al Presidente Napolitano. Più invece elogiativo la lettura che ne dà Sergio Soave sul Foglio, un'analisi di Sergio Soave sul Foglio, che parla di leale passo indietro di Napolitano, uomo solo, obbligato al comando. Il fallimento della pacificazione, la fine del consenso unanime per il Quirinale. Moral suasion, ma senza out. Quindi in qualche modo Soave legge questa ennesimo appello a Napolitano, alla politica, perché dia corso alle riforme come una moral suasion, però che non comprende termini molto forti, diciamo molto stringenti, riguardo appunto alle sue dimissioni, di cui si era anche parlato, si era ventilata la possibilità che ci fosse addirittura nel discorso di fine anno del Presidente un annuncio di prossime dimissioni. Dice Napolitano: ha tratto la convinzione di dover fare in un certo senso un passo indietro, ha preso atto che il patto di pacificazione e impegno riformatore su cui era stata stabilita la sua conferma non esiste più, e per questo ha motivato l'esigenza di riforme e del dialogo necessario per vararle con una sorta di volontà popolare, testimoniata dalla sua lettura e interpretazione delle lettere al Quirinale, non quindi da una volontà presidenziale che è stata invece confinata nei più stretti limiti della pura moral suasion. E ora ci fermiamo qualche istante, c'è un breve stacco pubblicitario. In primo piano. Bentornati alla lettura dei giornali, dei primi giornali del 2014, e quindi ancora un augurio di buon anno, di un anno, come dire, di serenità quantomeno, e speriamo anche di miglioramenti dal punto di vista economico, delle prospettive del nostro paese per tutti quanti. Grazie a Carmelo Lauricella che questa mattina mi assiste in regia. Vi ricordo che anche nel 2014 Radio 24 prosegue il suo dialogo con gli ascoltatori, quindi chi volesse può inviare degli sms al 349-238-6666. Abbiamo dato ampio spazio, ma così appunto fanno i giornali di questa mattina, all'eco del discorso pronunciato il 31 dicembre da Giorgio Napolitano. Un discorso che, come sapete, ha visto questo tratto di rottura, questo tratto inatteso nella lettura delle lettere inviate al Quirinale da semplici cittadini, da imprenditori, da giovani, da pensionati, che Napolitano ha voluto citare per dare voce in qualche modo direttamente al disagio di tutti noi in questo difficile momento, non solo economico. E poi Napolitano ha invitato, come sappiamo, ad agire per le riforme, e questo è un po' la lettura che vuole sottolineare Stefano Folli, come sapete editorialista del Sole 24 Ore, e che parte da una constatazione: è andato a vuoto l'appello al boicottaggio che era stato lanciato specialmente da Grillo, che ha anche proposto un contromessaggio di fine anno, quindi il contromessaggio di Beppe Grillo contro il messaggio invece del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. E Stefano Folli parte appunto da questo, perché in realtà il messaggio del Presidente della Repubblica ha avuto ascolti decisamente più alti della media, un 12% abbondante in più. Comincia così l'editoriale di Stefano Folli questa mattina sul Sole 24 Ore: chi di web perisce. Le regole della società mediatica sono spesso crudeli per coloro che credono di maneggiarle in via esclusiva. Dopo i reiterati inviti al boicottaggio, il messaggio di San Silvestro del Capo dello Stato ha ottenuto un indice di ascolto mai così alto, segno che gli italiani avevano bisogno di sentire la voce delle istituzioni, mentre non erano altrettanto interessati ad assecondare certe iniziative goliardiche. È una piccola lezione per l'opposizione antisistema, chiamiamola così, quel variegato mondo che in Grillo ha ormai il suo vero punto di riferimento, ma raccoglie in ordine sparso anche berlusconiani intransigenti e leghisti, una singolare coalizione che si è data come missione la definitiva messa in crisi delle istituzioni, a cominciare dalla Presidenza della Repubblica, ma che l'altra sera ha subito una sconfitta piuttosto evidente. Napolitano ha trovato, scrive Folli sul Sole 24 Ore questa mattina, il tono giusto per parlare agli italiani, riconoscendo loro doti di coraggio, tenacia, sopportazione, che costituiscono la vera carta su cui investire per risalire dall'abisso. Il Presidente ha indicato un percorso privo di scorciatoie, ma di cui si intravede l'approdo se le forze politiche si dimostreranno per una volta all'altezza delle loro responsabilità verso la comunità nazionale. Viceversa, gli assedianti, coloro che puntavano al boicottaggio, perseguono solo la destabilizzazione hanno da proporre poco o nulla. Un caos creativo, si potrebbe dire, una sorta di tutti a casa, senza che nessuno senta il dovere di indicare in concreto cosa accadrebbe dopo alla società, all'economia, forse anche alla democrazia. Questo una parte dell'editoriale oggi di Stefano Folli, che poi appunto si concentra anche nella sua seconda parte sulla opportunità, sulla necessità di intervenire con delle riforme. Dice: la riscrittura del patto di governo a questo punto non può essere solo uno stanco rituale politico, come è accaduto troppe volte in passato. Questa volta dovrà offrire risultati concreti sul piano degli impegni economici e istituzionali, risultati che siano percepibili dall'opinione pubblica in tempi brevi. È il terreno su cui saranno messi alla prova sia Letta sia Renzi, entrambi chiusi nel cliché degli irriducibili rivali, ma in realtà legati da un interesse convergente. Il Premier ha l'occasione di compiere il salto di qualità indispensabile per restituire agli italiani la speranza che il suo governo non sempre ha saputo alimentare. Il secondo, il giovane neosegretario del PD, ha l'opportunità di dimostrare la sua stoffa di uomo politico, se non ancora di statista. Allora, di quali riforme stiamo parlando, di quale riforme ci stiamo occupando? Lo ricorda lo stesso Sole 24 Ore nelle sue pagine successive. Soprattutto ci sono quattro versanti su cui ci si attendono interventi importanti, interventi decisi da parte del governo e del Parlamento. Contratti e incentivi per quanto riguarda il lavoro nel patto di programma della maggioranza. Il Sole 24 Ore propone anche il suo giudizio, il suo rating 24. Come sapete, spesso appunto misuriamo lo stato di attuazione o di attuabilità di misure che vengono proposte, votate, decise dal governo e dal Parlamento. Ecco, per quanto riguarda appunto la volontà di intervenire sulla crisi e sull'emergenza dell'occupazione, lo stato di avanzamento viene giudicato medio. Ci sono anche poi nel patto di maggioranza le cosiddette riforme istituzionali e poi la mediazione che è in corso sulla riforma da Bossi-Fini. Ma per quanto riguarda le questioni della legge elettorale, del meccanismo di voto, come sappiamo irrinunciabili dopo la bocciatura della Corte Costituzionale, c'è uno stato di avanzamento che è ancora molto molto basso, che non prevede una possibile via d'uscita. Questo anche al senso del richiamo, o moral suasion come qualche giornale la chiama, del richiamo appunto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. E poi i sacrifici della politica, stato di avanzamento che il Sole 24 Ore che giudichiamo medio. Ci sono tagli incerti sui finanziamenti ai partiti e alle province, diciamo siamo ancora un po' più avanti dei buoni propositi ma un po' più indietro della reale applicazione. E poi torniamo all'economia reale, disoccupati e imprese, risposte ancora parziali, giudizio di Giorgio Pogliotti, lo stato di avanzamento è molto basso sul cuneo fiscale, come sappiamo grande promessa della legge di stabilità, insomma della manovra finanziaria per l'anno che si è appena aperto, sul cuneo fiscale e quindi sulla riduzione della pressione fiscale nelle buste paga e sulle imprese. La legge di stabilità davvero fa uno sforzo molto basso. Sforzo molto basso, molto ridotto, obbligato dallo stato dei conti, ma certo in queste condizioni l'approccio ragionieristico finisce poi per punire, diciamo, anche gli stessi proponenti, perché sicuramente non possono essere misure a cui affidare il rilancio se non sono molto forti, se non sono abbastanza cospicue. Passiamo dal Sole 24 Ore, su cui magari torneremo più tardi, torneremo nell'ultima parte della nostra trasmissione, al Messaggero. Ritroviamo in evidenza la Chrysler, Fiat conquista tutta Chrysler, Torino al 100% di Detroit con il 41,5% del fondo Veba, un'operazione da 4,35 miliardi di dollari. La casa torinese paga cash solo 1 miliardo e 75, Marchione dice siamo un costruttore globale. E poi Napolitano a centro pagina del Messaggero. Napolitano: non resterò a lungo, servono riforme. basta calunnie. Qui il riferimento è appunto alle pressioni che Napolitano ha subito, ha sopportato perché accettasse un secondo mandato, quello che lo ha portato appunto a questa innovazione, anche a questa novità dell'ottavo discorso, dell'ottavo messaggio di fine anno, ha detto appunto il presidente, le pressioni che, anche se ora qualcuno sembra essersene dimenticato. Dal Messaggero al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera sceglie di sottolineare un passaggio del discorso nella sua titolazione, sul Colle per un tempo non lungo. Napolitano ha incalzato i partiti raccontando le storie dei cittadini, e la vignetta di Giannelli oggi sul Corriere della Sera in qualche modo contribuisce alla sottolineatura che viene data dal titolo, appunto, sul Colle per un tempo non lungo, perché si vede Napolitano a una finestra del Quirinale, finestra però con le sbarre. Altri 7 anni di Quirinale è il titolo della vignetta, e il pensiero del presidente nel fumetto è: voglio augurarmi che sia l'anno del condono. Insomma, un Napolitano che in realtà sarebbe più contento anche di potersi fare da parte in qualche modo, ma non prima, come ha detto, non prima che siano davvero avviate il percorso di riforma elettorale, di sacrifici appunto anche per la classe politica. Tutta Chrysler della Fiat, e poi il titolo invece che si trova sul centro della prima pagina del Corriere della Sera, che ricorda poi un altro annuncio che è venuto ieri, l'omicidio stradale contro i pirati. Il ministro Cancellieri ha annunciato norme entro gennaio, un decreto legge, un disegno di legge, vedremo quale sarà la forma del provvedimento, carcere fino a 10 anni. E poi un piccolo strillo in basso ricorda che da oggi il Corriere della Sera costa 10 centesimi in più, invita appunto chi volesse spiegazioni su questa decisione a inviare mail oppure a telefonare a un numero di telefono del servizio clienti. Lo sottolineo perché appunto questa decisione del Corriere della Sera poi è lo specchio della difficoltà in cui tutti i giornali, ma i quotidiani in particolare, si trovano, difficoltà appunto nel trovare le nel trovare acquirenti, nel vendere copie. In qualche modo le copie sono, come sappiamo, sempre in calo, e anche la diffusione in via digitale non è ancora sufficiente a sostituire questo mutamento di abitudini da parte dei lettori. Quindi il Corriere della Sera che decide di aumentare il suo prezzo di copertina. De Blasio, il sindaco De Blasio, quello che è andato al giuramento in metropolitana. I De Blasio, stile libero in città, dice Matteo Persivale, la modern family del sindaco di New York al giuramento, manda in pensione il ventennio di guida repubblicana Giuliani Bloomberg, la moglie Shirlane serena sui suoi tacchi bassi, il figlio Dante con i capelli afro e in maglione, la sorella Chiara con il cappello di Halloween. Insomma, un approccio estremamente informale del neo sindaco di New York, che così si è presentato ai cittadini. Vorrei utilizzare questo minuto che ancora ci separa dalle condizioni del traffico per leggervi qualche passaggio, però ancora dedicato al discorso di fine anno di Napolitano, e la lettura che ne dà Marzio Breda, come sappiamo quirinalista del Corriere della Sera. Quella lettera per evitare il secondo mandato è il titolo che il Corriere dà all'articolo di Marzio Breda, che comincia già in prima pagina. Il 2014, scrive Breda, sarà un anno cruciale per Giorgio Napolitano, durante il quale potrà verificare se si fanno sul serio le riforme e quindi la tenuta della legislatura. Sa bene il presidente che serve coraggio, lo stesso che lui ebbe accettando a suo tempo il secondo mandato, nonostante con una lettera abbia tentato di evitarlo. Il Quirinale, quella circolare per dire no al secondo mandato, infatti il titolo di una delle pagine interne del Corriere della Sera, che presenta una ricostruzione delle pressioni nei giorni della rielezione. Insomma, anche chi adesso chiede a gran voce che il presidente si faccia da parte era stato poi in prima fila nel chiedergli di invece accettare un secondo mandato. E sempre nell'articolo di Marzio Breda, che appunto si concentra su questo tempo non lungo, queste sono le testuali parole del Presidente della Repubblica, che Giorgio Napolitano si assegna in questo secondo mandato al Quirinale. E poi c'è un'analisi di Corrado Staiano nelle pagine interne che coglie un aspetto forse un po' più generale, che si può utilizzare se vogliamo come riflessione conclusiva, ma di questo ci occuperemo dopo le informazioni sul traffico. In primo piano. E allora, ancora buona giornata e un buon anno da Mauro Meazza questa mattina qui per i primi giornali del 2014, e grazie a Carmelo Lauricella questa mattina in regia, preziosa assistenza perché la mia voce e le nostre indicazioni arrivino fino a voi. Allora, Corrado Staiano, dicevamo, sul Corriere della Sera, un'analisi che si può a buon diritto utilizzare per chiudere tutti e i moltissimi commenti che da segno opposti in modo critico oppure in modo invece laudatorio accompagnano il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Un discorso importante, perché naturalmente si cerca anche di cogliere quali potrebbero essere gli auspici, il modo in cui la politica italiana si presenterà da oggi in avanti a tutti noi, cercando di dare le risposte necessarie a uscire dalla crisi, a migliorare la condizione del paese. Corrado Staiano dice, comincia con un augurio, si augura che il nuovo anno sia un po' più sereno di quello appena finito. È accaduto di tutto nella politica e nella società, la distanza tra istituzioni e cittadini è diventata ancora più profonda, un burrone, le promesse dei governanti il più delle volte bugiarde, simili a quelle fatte dalle mamme ai bambini per farli star buoni, suscitano rigetto, e si ha purtroppo l'impressione che la classe dirigente non voglia rendersene del tutto conto. La positività a ogni costo, la leggerezza, il divieto di drammatizzare sembrano le parole d'ordine d'obbligo per coprire quel che sta accadendo in Italia più che altrove. Esistono certamente anche qui da noi le energie positive della società minuta, uomini e donne che si prodigano per tirar su i figli con decoro, mettono in moto idee intelligenti, creano iniziative utili alla comunità, ma queste non poche volontà di agire in modo onesto e nuovo sono isole, prive degli indispensabili ponti in difficoltà, perché fuori dai cerchi magici di chi detiene il potere. E qui Staiano allarga la sua riflessione ai partiti. I partiti sono in crisi profonda. Nel Novecento hanno rappresentato la fabbrica del consenso e della legittimazione. Ora sembrano scatole vuote. Quel che conta è l'immagine, il marketing, non la sostanza del fare. Le forme strutturali della politica sono cambiate, prevale il finanzcapitalismo che ha sostituito la forza dell'obsoleto capitalismo industriale. La crisi di sfiducia è generalizzata. Il Parlamento è delegittimato, un passacarte del governo che a sua volta è appeso alla maniglia dei decreti legge e dei voti di fiducia indispensabili per andare avanti. Non sembra che questo passaggio nodale di una crisi non solo economico-finanziaria ma politica e culturale sia preso in considerazione. La politica lo scarta come una mosca fastidiosa, ma manca anche il sospetto e il timore che in questo scompiglio possa essere a rischio l'idea stessa di democrazia, il sistema politico più alto creato dall'uomo. Questa è una parte della riflessione di Corrado Staiano che accompagna appunto la pagina del Corriere della Sera dedicata ai retroscena sulle pressioni che Giorgio Napolitano ha subito nella primavera dell'anno scorso, ormai del 2013, purché accettasse il secondo mandato. E con questo passiamo oltre, vediamo altre notizie. Intanto vi ricordo che come sempre potete inviare i vostri sms al 349 238 6666 per comunicarci quello che volete dire a Radio 24, e come sempre anche potete utilizzare il nostro sito www.radio24.it o naturalmente il sito del Sole 24 Ore per essere aggiornati su tutte le notizie della giornata, www.ilsole24ore.com. Dicevo, cambiamo argomento in questi 5-6 minuti che ci restano Vediamo quali altre notizie trovano spazio sui giornali. Beh, innanzitutto una notizia quasi d'obbligo, tutti i primi giorni dell'anno, cioè il bilancio dei danni da petardi. Quest'anno non sembra ci siano stati appunto dei morti, ma ci sono stati parecchi feriti, alcuni anche molto gravi, per quello appunto la prudenza è d'obbligo. Il Corriere della Sera dedica una pagina, mettono insieme i petardi, 5 feriti gravi in una villa, è un evento accaduto a Tivoli, ma l'episodio più grave appunto nella serata è accaduto non nel 31, ma nella serata del 31, ma nella serata dell'1, perché erano stati messi insieme dei botti inesplosi. E poi una bambina di 6 anni a Piedimonte Matese che ha riportato delle ustioni. La nostra battaglia perduta contro il pericolo è il titolo del commento affidato a Goffredo Buccini. Appena 350 feriti, l'appena tra virgolette, circa. Il circa è obbligatorio perché questa sparatoria demenziale miete vittime anche molte ore dopo lo scoccare della mezzanotte, contro i 361 del Capodanno scorso, e per la prima volta da 3 anni nessun morto. La chiamiamo festa, li chiamiamo botti, quando esplodono ridiamo col naso all'insù. Il commento appunto di Buccini, che dice si sono rivelate anche quest'anno inutili le ordinanze dei sindaci, campagne di informazione retate nei depositi di botti abusivi, però in qualche modo è andata meglio, solo 350 feriti, naturalmente il solo è del tutto da prendere tra virgolette. E poi una pagina un po' fuori dall'ordinario che presenta sempre quello della sera, gli anni che finiscono con il numero 4 quest'anno, tra l'altro, e lo ricorda la Repubblica in un articolo che comincia già in prima pagina, si celebrerà il centenario dello scoppio della prima guerra mondiale del 1914. Il Corriere della Sera, oltre a ricordare questo centenario, ricorda degli anniversari più vicini. Nel 1954 arrivò la RAI, era il 3 di gennaio, quindi come fosse domani. Nel 64 la bambola Barbie e gli spaghetti western, e fu inaugurato il metro di Milano. Nel 74 fu l'anno del referendum sul divorzio, ma anche l'anno dell'austerity, delle targhe alterne. E poi nell'84 la scomparsa di Enrico Berlinguer, nel 94 il primo libro di un papa, gli ultimi esami a settembre, e nel 2004, per arrivare appunto a 10 anni fa, la fine della NAIA, la fine del servizio militare obbligatorio. Questo nella pagina del Corriere della Sera, che poi appunto non solo ricorda questi anniversari rotondi degli anni che finiscono con il 4, ma anche ricostruisce appunto che cosa era successo. Veniamo al Sole 24 Ore. Sul Sole 24 Ore una segnalazione sulla delega fiscale, progetto di riforma del fisco, una delle riforme di cui c'è molto bisogno. Fisco più equo con il nuovo catasto, ci informa Giorgio Costa, perché entro febbraio dovrebbe essere raggiunto il via libera del Parlamento alla delega fiscale. Il primo decreto del governo, una volta che ci fosse questo via libera, dovrà arrivare entro 4 mesi. Il nuovo catasto è una dei punti di svolta della tassazione immobiliare. Come sappiamo, nell'anno che si è appena chiuso, la tassazione sugli immobili è stata decisamente nei nostri pensieri con il faticoso addio all'IMU sulla prima casa, addio non concluso perché, come sappiamo, incombe ancora su di noi la mini IMU nei comuni che hanno una difformità tra l'aliquota di giugno e l'aliquota di dicembre, e insomma tutti i vari tira e molla su questa imposta che abbiamo raccontato via via nei giorni del 2013. Adesso la delega fiscale promette di mettere ordine, fisco più equo appunto con il nuovo catasto. Dal nuovo catasto poi dovrebbero derivare ulteriori miglioramenti per tutti noi. Intanto però già da oggi è cambiata l'imposta di registro, quindi per capirci ad esempio l'imposta che si paga sulle compravendite di immobili tra privati. Allora Angelo Busani, sempre sul Sole 24 Ore di oggi, riepiloga qual era il regime fino a 48 ore fa, fino al 31 di dicembre del 2013, come funziona invece da ieri, 1 gennaio, ma insomma operativamente da oggi, 2 gennaio, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e quella catastale, poi il bollo e le tasse ipotecarie nei vari casi di trasferimenti di immobili, poiché la casa appunto è sempre al centro dei nostri pensieri, è un cambiamento molto importante, un cambiamento che ancora deve essere perfettamente assimilato e probabilmente spiegato dalla stessa amministrazione, per evitare pasticci sul nuovo regime. Vediamo un altro tema che a questo punto credo davvero sarà quello conclusivo. Su diversi giornali campeggiano le mance cosiddette la legge di stabilità, cioè misure, appunto, ne abbiamo parlato spesso sul Sole 24 Ore, anche qui a Radio 24, misure di sostegno alle iniziative più varie, però traiamo da Libero questo segnale non bello: Letta toglie i soldi all'infanzia perché, spiega Antonio Castro, legge di stabilità ha ridotto del 22% il Fondo Nazionale per Bambini e Adolescenti nel 2014 e di quasi il 30% per il 2015 e il 2016. Insomma, negli ultimi 10 anni il Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza è stato cancellato per l'80%. Peccato. Bene, con questo noi concludiamo la nostra rassegna stampa, la prima rassegna stampa del 2014. Allora, ancora da parte mia, da Mauro Meazza, i migliori auguri per un buon anno, per un anno che magari ci faccia davvero percepire dei segnali di ripresa, ripresa non solo di tipo economico, ma anche ritrovamento di serenità, di tranquillità un po' per tutti noi. Grazie a Carmelo Lauricella ancora una volta e buon anno a tutti.